Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Pronti, si parte da oggi, via libera agli spostamenti tra le regioni in tutta Italia, i viaggi dai paesi Schengen senza l'obbligo di quarantena. Come reagiremo a questa nuova libertà? Dopo il lockdown, dopo la fase 2 in cui siamo stati segnati e da cui usciamo cambiati, quali saranno le emozioni, le reazioni che caratterizzeranno la nostra nuova quotidianità? Voi che dite? Come vi sentite? Sollevati o preoccupati? Beh, non è facile rispondere perché siamo stati esposti da settimane a notizie contrastanti che inevitabilmente hanno generato un clima di incertezza e di confusione. Per questo proveremo a fare chiarezza facendoci aiutare dal professor Giuseppe Pantaleo, che è già in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ho chiesto aiuto al professor Pantaleo perché il professor Pantaleo è ordinario di psicologia sociale, nonché direttore di un laboratorio di psicologia sociale alla facoltà di psicologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, che cosa possiamo ragionevolmente attenderci per i prossimi giorni? Ci impresti un po' il suo occhio di ricercatore, dato che come psicologo sociale lei studia le emozioni, le motivazioni e i comportamenti sociali. Quale sarà il clima sociale che caratterizzerà i prossimi giorni? Sì, sarà un clima caratterizzato dall'alternanza di euforia, da un lato, contentezza, vitalità, entusiasmo, e corrispondenti spinte motivazionali, comportamentali a riappropriarsi di certi spazi di libertà. È un fenomeno che noi chiamiamo reattanza, si reagisce proprio alla restrizione della libertà cercando di ristabilire gli spazi di libertà. È un pochino come quando si osserva, mettiamo, un animale, un cane che entra all'interno di uno spazio, di un appartamento e che faccia poi una ricognizione. Ecco, noi avremo bisogno di fare la ricognizione, di fare un pochino il punto della situazione rispetto a tutta una serie di fattori. D'altra parte questa euforia, questa contentezza sarà alternata a stati di incertezza, di dubbio, di paura, di timore, e quindi il clima sarà proprio caratterizzato da questo alternarsi di questi due stati, insomma. Sì, un po' luce e ombra, le due facce della medaglia. D'altronde, professore, l'emergenza Covid ha cambiato radicalmente la nostra vita. Professore, mi aiuti a fare un paragone, se è possibile. Se questa società fosse una persona, lei come la descriverebbe? Che caratteristiche andrebbe a sottolineare? Sì, questa cosa è possibile fare questo accostamento, usare questa metafora, e ci ricorda in realtà il discorso, uno dei discorsi di Menenio Agrippa, forse il suo più famoso discorso, siamo circa nel 500 a.C., e lui proponeva alla società romana come fosse un corpo umano, e per cui insomma il messaggio di fondo è che dovremmo essere tutti uniti per il bene comune. E alle volte questo riesce, ci riesce, e parliamo in questo caso di solidarietà, di cooperazione e anche di un certo sacrificio che ci vuole proprio per realizzare un impegno comune, per raggiungere un obiettivo comune. E questo l'abbiamo visto in questi giorni di coronavirus. Altre volte riesce un pochettino meno, insomma, proprio per via di questa alternanza di da un lato speranza e dall'altro incertezza. Insomma, professor Pantaleo, corsi e ricorsi della storia. Ma a proposito di storia, oggi è tornata a trovarci una nostra vecchia conoscenza, Marina Marazza, che è stata spesso con noi a farci entrare nella sua macchina del tempo e a mostrarci il filo rosso che collega sempre fortemente gli uomini di ieri e gli uomini di oggi. In questi giorni esce il suo nuovo romanzo, dopo quell'ombra di Caterina che è servita un po' da falsariga, se vi ricordate, per portarci in viaggio con Leonardo da Vinci. Esce questo nuovo romanzo, si intitola Io sono la strega, edito da Dosolferino, e racconta proprio una modernissima vicenda di un'altra Caterina, Caterina D'Abroni, diventata famosa come la strega di Milano. Marina, bentornata e benvenuta. Grazie, cara Nicoletta, buongiorno a te, buongiorno al professore e a tutti gli ascoltatori. Dai suggerimenti, dalla lettura del professor Pantaleo, siamo arrivati a te, alla strega di Milano. In che modo il tuo romanzo presenta analogie con il presente che noi stiamo vivendo? Oh, sono troppo contenta di avere ancora una volta, grazie a te, la possibilità di raccontare le curiose vicende dei personaggi rimasti all'ombra della storia. Se vogliamo trovare delle analogie, il primo personaggio che mi viene in mente è un medico famoso del Seicento, il dottor Ludovico Settala, citato nei Promessi Sposi. E infatti è parlando di lui che Manzoni introduce la vicenda della nostra Caterina D'Abrone, no? Che è l'eroina, diciamo, del mio romanzo che tu citavi prima. È una storia così emblematica che Manzoni non può fare a meno di parlarne. E se mi permetti una brevissima citazione, ho qui davanti il tomo. Sì, Il il tomo. protofisico Lodovico Settala, il tomo Promessi Sposi, il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuagenario, professore di medicina all'Università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissime allora, era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo, quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare come strega una povera infelice sventurata, perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora ne avrà avuta presso il suo pubblico nuova lode di sapiente e, ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito. Sto leggendo dal capitolo 31 dei Promessi Sposi. Cosa ci vuol dire Manzoni con queste parole che suonano un po' criptiche alle nostre orecchie moderne? Ci vuole sottolineare la duplice natura del dottor Settala, che da un lato è un uomo di scienza. Guarda, è stato proprio uno dei pochi a capire davvero come far fronte al contagio della peste. Dall'altro lato, però, rimane un uomo irrazionale, superstizioso, che crede nelle streghe e che accuserà Caterina diventando uno dei principali artefici della sua condanna. Allora, adesso ci stai incuriosendo come sempre, Marina. Vuoi raccontarci in brevissimo la storia di Caterina senza spoilerare troppo? Tra l'altro, il Caterina ritorna, ci sarà anche un Caterina 3? Dopo l'ombra di Sì, Caterina, io sono la è strega. probabile che ci sarà. Mi stanno chiedendo infatti se farò la trilogia della Caterina. Del resto Caterina è un nome ricorrente, è un bellissimo nome che ricorre nelle donne del passato. E quindi molto volentieri io vi accenno a questa storia molto lombarda di questa Caterina D'Abroni che nasce nel Pavese intorno al 1573 e ha subito una vita difficile. Lei è figlia di un maestro di scuola e sa leggere e scrivere, ma questo non le risparmia di essere violentata a 12 anni dal suo feudatario e data in moglie a 13 a un uomo che la porta a Pavia per farla prostituire. E dalla fuga da questo marito stalker, che è un altro tratto molto moderno del personaggio, inizia un suo peregrinare nell'oltrepò e nel Monferrato, vivendo picaresche avventure al servizio di padroni bizzarri, crudeli e imprevedibili. Tra l'altro, Caterina vivrà anche la peste del Monferrato, a proposito di analogie, no? Come dicevamo prima, Nicoletta. Una peste polmonare molto simile al nostro coronavirus e piena di circostanze analoghe alla nostra contemporaneità. Ho messo le mani su delle bollette di sanità similissime che dovevi avere per poter circolare, dove la cosa buffa che mi ha molto colpito è che i connotati, ovviamente allora non c'erano le foto, erano dati attraverso delle descrizioni. Per altezza, per complessione, se eri di complessione chiara o scura, e soprattutto della barba per gli uomini, che dimostra che evidentemente la dovevano portare quasi tutti. Ne ho trovata una del 1598 che descrive così due uomini: statura granda e barba chiara, statura media e barba scura, che partivano a cavallo da un paese per andare a Novara. Tutto specificato, con scritto: per Iddio grazia, liberi dal sospetto di peste. Un po' come le nostre autocertificazioni. Insomma, professor Pantaleo, l'abbiamo un po' fatto fare un viaggio nel passato, ma come a dire che corsi e ricorsi della storia, un po' tutto torna, professore, e tornano probabilmente anche dei comportamenti, no? Che sono comportamenti di massa, che sono proprio la sua materia. Ogni tempo di crisi, di peste, di carestia ha inevitabilmente portato portato con sé dei comportamenti sociali specifici e credo, un po' come succede agli individui che di fronte ad una sfida trovano poi il modo di reagire, trovare delle soluzioni, tante volte abbiamo parlato di resilienza, possiamo, professor Pantaleo, anche a livello di società individuare dei segni di resilienza che sono nati appunto da questa emergenza, da questa situazione così complicata e delicata. Sì, sì, assolutamente. Oggi non si usa più tecnicamente il termine massa quando si fa psicologia sociale, si fa sperimentazione, parliamo di identificazione sociale e comportamenti di gruppo, però nella sostanza ci stiamo riferendo alla massa o alle folle di Le Bon. Studiamo i processi psicologici più da vicino e quindi per noi poi la massa o la folla non è più così indistinta perché riusciamo, grazie a una serie di tecniche e di strumenti, a mettere a fuoco proprio quei processi che ci interessano. In proposito è interessante perché la realtà è sempre composita, proprio così nei giorni scorsi ho recuperato un articolo scientifico molto ben fatto, il cui titolo è Superstizione e minacce economiche, è un lavoro dell'86, ma si riferisce a quanto accadeva in Germania dal 1918 al 1940, è stato pubblicato da Paget e Jorgensen, sono gli autori, su una rivista molto importante nel nostro settore, si chiama Psicologia Sociale, e insomma è un bulletin, adesso non sto qui insomma a nominare il nome della rivista, però è un lavoro insomma molto interessante. Sì, assolutamente sì. E questo lavoro mette in relazione con le appropriate tecniche statistiche anche, da un lato le difficoltà economiche che si trovava a vivere la Germania all'epoca, ma poi questi studi sono stati replicati anche in altri paesi, e dall'altro proprio la superstizione come outcome, come risultato comportamentale. La relazione è molto netta, molto chiara. Il processo psicologico che media fra queste due istanze, la crisi da un lato e la superstizione dall'altro, è un bisogno di controllo di tipo personale. Noi abbiamo sempre bisogno, certo, di dare un volto alla paura, all'incertezza, eccetera. Quindi da un lato questo è un punto fermo. Dall'altro però ci sono nuovi studi che stiamo conducendo proprio nel mio laboratorio, per esempio assieme alla dottoressa Sciara, a diversi collaboratori, che fanno vedere l'aspetto sfidante anche degli ostacoli e delle situazioni di crisi, no? E questo, se vogliamo, è l'aspetto positivo. Gli ostacoli possono fare da pungolo proprio in situazioni di crisi, certo, e far sì che noi si capitalizzi proprio sull'inventiva, la creatività. Noi siamo quel popolo di navigatori, di scopritori, eccetera, no? E naturalmente tutto comporta anche un certo sacrificio, un certo impegno, ma per l'appunto il sacrificio e l'impegno servono proprio. Ce la faremo, professore. Assolutamente, penso proprio di sì. La storia insegna. Come? Professore, la storia insegna. E chiuderei con una battuta della nostra amica Marina. Qual è l'insegnamento che Caterina può dare a noi uomini e donne di oggi? Ma guarda, Caterina impara molto dalle sue disavventure e a un certo punto va a servizio da una stampatrice di Trino, una delle rarissime donne che praticavano la nobile arte della stampa, e Clara Giolitto, che ha come simbolo la fenice, l'uccello che muore e risorge dalle sue ceneri. Il motto di Caterina è quello di non arrendersi mai, e come la fenice della stamperia Giolitto risorgere dalle proprie disgrazie. Mi sembra un po' come noi dopo il lockdown. E certo, allora io ringrazio Marina Marazza per essere stata con noi, naturalmente il professor Giuseppe Pantaleo, abbiamo Roberta Frisani in regia alla parte tecnica con noi, Anita Panizza in assistenza, Laura Vanossi come sempre in redazione. Vi do appuntamento dopo il GR delle 12, intanto buona giornata da Nicoletta.